Adesso la lezione annunciata è quella di Monsignor Valenziano, spero che si riprende il discorso, però con una dimensione interdisciplinare che guarda piuttosto al settore dell'antropologia. Monsignor Valenziano, mi riesce difficile presentarlo in modo adeguato perché ormai è una delle personalità di grande spicco nell'ambiente ecclesiastico e non solo ecclesiastico italiano, filosofo, credo discepolo di Sciacca, vero antropologo notissimo, teologo e liturgista insieme. Sottolineo questa fusione di interessi, vero? Tra l'antropologia e il mondo della liturgia che viene fortemente arricchito proprio dalla coesistenza in un unico ingegno di questi due fronti. Lui è insieme preside della Facoltà Teologica di Palermo che ha avuto in massima parte il merito di aver ispirato e costruito. Quindi da Trento a Palermo, da questo nostro istituto al suo, c'è ben una corrente di simpatie che insomma sorvola, sorpassa i monti e i mari e si rallegra tutte le volte che può essere di nuovo riattivata. È questa che lo ha anche deciso ad accettare il nostro invito, pur nella difficoltà, nella sovraccarico di impegni che proprio in queste settimane li gravano addosso. Io lo ringrazio cordialmente e lo prego di prendere la parola. Signor Roger è sempre molto buono con me, quindi fate un po' di sconto quello che pensate sia più opportuno. Magari fate dalla fine, così forse mi salvo, diciamo, in diagonale. E vorrei iniziare con una sorta di explicatio circumstantiarum anziché di explicatio terminorum. Del resto, per una buona impostazione linguistica, le circostanze non sono meno determinanti e qualificanti dei termini del vocabolario. E iniziamo da qui. Lei, Monsignore, mi ha detto la sua intenzione di non imbastire una commemorazione del Niceno II, quanto piuttosto una specie di trama per una problematica, in occasione del centenario Niceno, il meglio e il più possibile attuale. Io sono siciliano e quindi figlio della cristianità che ha due matrici ecclesiali, almeno proprio dal tempo, e non tutto liscio, non tutto chiaro, non tutto bene, gli storici sanno bene, proprio dal tempo del Niceno II o poco prima. Personalmente, a volte noi siciliani ci riusciamo a vedere in noi stessi queste sedimentazioni. Personalmente vengo, quelli di mio padre sono normanni, quelli di mia madre sono greci dell'Epiro fino al 1820. Quindi ognuno di noi porta in sé queste sedimentazioni, questi sincretismi non sempre risolti, a volte anche veramente separanti. E tutto ciò conta la sua parte, come? Quando poi lei mi invitava per questa riflessione, io ero lì per uscire dalla impostazione del nuovo evangeliare delle chiese d'Italia, che ci ha costretto ad anni di lavoro, e oltre che di lavoro, di riflessione, di ripensamenti, di avanti, indietro, e soprattutto di contatti con artisti che certamente sono nel gota dell'arte italiana. E questi stessi artisti ci hanno costretto ad una riflessione attenta, attentissima, a molte problematiche che a me, non solo a me, ma a me dal punto di vista antropologico, sono risultate veramente illuminanti. quali veramente un approfondimento acuto, il più acuto possibile, sullo statuto della geografo e del suo carisma, del pittore e della sua fede speranza. O dinanzi tutto quello che abbiamo vissuto, ho finito appena di scriverlo, sarà pubblicato tra non molto, su Guttuso, il Guttuso della Domenica delle Palme. Basta dire questo nome, in questa circostanza, in questa situazione, questa immagine da lui proposta, che evidentemente rendersi conto di quello che c'è stato di travaglio e quello che a uno come me ha potuto dare un contatto così prolungato per anni. Queste circostanze, Monsignore, tra l'altro mi hanno riportato al Concilio Niceno II, in questo centenario da quegli avvenimenti, da diverse prospettive anche per parlarne. Antropologica qui a Trento, aspetti antropologici dell'iconografia e dell'iconologia, culturale tra poco a Bari, la crisi, dicono loro, io se lo toglierò, del simbolismo in Occidente tra l'VIII e il IX secolo, mi sembra più cauto parlare su questo, del simbolismo in Occidente, la crisi la lasciamo, vedremo poi in conclusione magari, tra l'VIII e il IX secolo, storica a Palermo, in ottobre, con il Santo Sinodo di Costantinopoli, i vescovi di Sicilia al VII Concilio Ecumenico, tutti sanno qual è stata, quale fu l'incidenza dell'Episcopato di Sicilia in quel tempo. Ma non nascondo che in cerca per me stesso di qualcosa d'unificante in tutto questo insieme, mi sono lasciato prendere da una parola di Romano Guardini, mi lasci dire in un certo senso, tra virgolette almeno, del vostro Romano Guardini, visto quello che lei mi ha detto, di quanto di lui il vostro istituto analizza e riflette. Dunque, una parola di Romano Guardini, in sinergia direi ad una immagine di Mazzagalli. Mi si permetterà di proporle adesso come osservazione iconologica e appunto iconografico, che mi pare puntualizzano aspetti antropologici e culturali e storici con valenze catalizzatrici. Ripeto, così mi pare. Ho letto la pagina di Guardini che mi ha interessato in questo senso nel volume secondo degli Scritti Filosofici, edito a Milano, 64, dove lo scritto che cito è l'ultimo dei tre che li costituiscono, la trattazione sulla funzione della sensibilità nella conoscenza religiosa, cioè l'immagine sacra e il Dio invisibile. Ma citerò da qui a poco anche qualcosa degli altri due. Da te. Nel corso della storia, dice Guardini dunque, l'avvertimento di guardarsi dal pericolo della rappresentazione di Dio è frequente. Verso la fine del primo periodo cristiano scoppiò una lotta violenta contro le immagini sacre, implicate in scopi politici. Essa portò estese distruzioni di opere d'arte sacra, come pure accanite persecuzioni dei difensori delle medesime. Durante la Riforma, specialmente tra i calvinisti, la passione iconoclasta ritornò. Di nuovo furono distrutte preziose opere d'arte cristiane. Nei secoli XIX e XX, l'eliminazione della rappresentazione ha poi raggiunto conseguenze estreme, in quanto ora si è contrari non solo alla rappresentazione pittorica e plastica di figure sacre, ma anche ad ogni espressione di Dio e di contenuti cristiani. In tali movimenti concorrono motivi di natura diversissima. La coscienza del cristiano primitivo si difendeva dal pericolo che il culto delle immagini sacre la mutasse in idolo. Possibilità, in un mondo ancora impregnato di prospettive pagane, probabile e verificabile. Si aggiunge inoltre uno spiritualismo proveniente dal pensiero neoplatonico che guardava ogni presentazione corporea come decadimento dalla vera essenza. Durante la Riforma, il sentimento cristiano si levò contro una penetrante concezione figurativa antica, sotto il cui influsso il Rinascimento era steso a volte a combinare arbitrariamente le immagini della storia della salvezza con le forme e gli atteggiamenti di figure persino mitologiche. Infine, per quanto riguarda i motivi antifigurativi del periodo contemporaneo, evidentemente Guardini non sta scrivendo oggi, gioco persino farlo notare, bisogna dire che essi spingono al massimo la tendenza della Riforma a sottrarre l'originalità cristiana da ogni facile connessione mondana. Che l'atto di fede e l'espressione dei suoi contenuti assume il carattere di rischio e anche di paradosso. Che si tratti, conclude Guardini, di cose assai importanti, è evidente per chiunque sa come procede la storia. Ma la radicale abolizione dell'immagine contrasta con le intenzioni della rivelazione. Quanto riguarda poi l'assenza di immagini nel luogo sacro, non sarà superfluo notare che il vuoto stesso è immagine. Il vuoto che emerge in modo funzionale dallo spazio e dai piani non è affatto negazione della raffigurazione, tutto al contrario. Esso sta alla raffigurazione come il silenzio sta al dito. Ho visto il dipinto di Chagall, mi scuso per chi eventualmente non lo ha presente, nei Musei Vaticani. Si tratta di Cristo e il pittore della collezione pontificia d'arte religiosa moderna. Sul fondo una tela, il mondo del pittore. La stessa tela della prima vetrata nell'Istituto d'Arte di Chicago sulla pittura. Sulla tela e oltre la tela, il crocifisso è il mondo del crocifisso, un cosmos bianco, grigio, rosso, sul quale egli stende le sue braccia e la sua croce, lo stesso crocifisso della terza vetrata ovest nella chiesa di Ginevra, la stessa croce della vetrata La Pace a Londra. A sinistra, nel registro in alto, l'angelo con il simbolico candelabro a quattro luci. Come non ricordare i candelabri simbolo a sette, a cinque, a quattro braccia di Chagall. L'angelo con candelabro nel battistero di Assisi, candelabro mistico nelle variazioni alle 12 vetrate di Gerusalemme, o il candelabro nella vetrata della tribù di Isaccar. Nel registro mediano, l'allegorico uomo alato dalla testa d'asino e con il libro tra le mani, che a notare Chagall usa con un tempo analogo alla famosa presa dell'asino di Pietro, vescovo di San, e alla sottesa cristologia. Nel registro in basso il bellissimo angelo con la tromba, anche qui gli angeli con tromba di Chagall, l'angelo che suona lo shofar nella seconda vetrata dell'abside nord nella cattedrale di Metz, o gli angeli in tutti e quattro i registri della vetrata Salmo 150, nella quale tra l'altro ritorna il candelabro simbolico e l'allegorico asino col libro. Così che, su questo lato a sinistra, la luce dei quattro evangelisti, la kenosis del logo, la proclamazione ecclesiale dipingono registro su registro il versante della parola. Io collegherei molto volentieri a tutte e tre le sue vetrate nell'Istituto d'Arte di Chicago, rispettivamente il candelabro nella raffigurazione del teatro, il libro nella raffigurazione della poesia la tromba nella raffigurazione dell'antico. A destra il pittore. E vedi la mano del pittore nella prima vetrata dell'abside nord nella stessa cattedrale di Mecca. La mano cioè sulla tela da dipingere, ma nella quale tela sta già qualcosa di dipinto, la mezzaluna, come nel nostro dipinto Vaticano. Egli, il pittore, invade a destra, questa volta dal versante dell'immaginario, polare al versante della parola, invade la tela. In alto, quella destra, è il pennello che disegna scritto. In basso, quella sinistra, è la tavolozza che ricornisce la pittura. La mezzaluna, che invade la tela a sinistra, gliela invade prima che lui intervenga, pittore, dal versante della parola, non luna piena, non tanda al sole come nell'iconografia classica della crocifissione, questa mezzaluna, secondo me, è un segno notturno di conoscenza riflessa e di disattività, che, secondo la tradizione iconografica ebraica tanto cara a Sagan, è segno di tutto un popolo errante a cominciare da Adamo o da Abramo. Così Sagan, il pittore è lui, gli occhi attenti negli occhi consapevoli del crocifisso, ha scritto: vorrei esaudire il tuo desiderio, rivelare un'altra verità, attingere dalla tua luce i miei colori. Ed ha detto nel discorso sull'inaugurazione delle sue vetrate nella chiesa di Zurigo il 5 settembre 1970: io vedo gli avvenimenti della vita e le opere d'arte con la sapienza della Bibbia. Un'opera veramente grande è pervasa dallo spirito della Bibbia e della sua armonia. È essenziale rappresentare i tratti invisibili del mondo e non riprodurre i soliti aspetti della natura. Malgrado le difficoltà del nostro mondo, io ho conservato l'amore della vita interiore in cui sono stato allevato e la speranza dell'uomo nell'amore. Nella nostra esistenza c'è un solo colore sulla tavolozza a dare il senso della vita e dell'arte, il colore dell'amore. Perciò ho potuto pregare dei poemi, mio Dio, per l'altra chiarezza che tu hai dato alla mia anima, io ti ringrazio. La notte è venuta, tu chiudi adesso i miei occhi prima che sia giorno, ma io per te dipingerò di nuovo i miei quadri, proprio per l'altra chiarezza che tu mi hai dato. Ecco dunque, con la riflessione del discorso filosofico e con il colore della proposizione immaginaria, la rappresentazione emblematica, mi sembra, dell'una e dell'altra verità, o meglio, dell'una e dell'altra approccio alla verità, l'una e l'altra chiarezza, luogo e momento antropologico della iconografia e della iconologia. Se io dinanzi a questa riflessione, dinanzi a questo dipinto, parlo di aspetti antropologici dell'iconografia e dell'iconologia, non è certo per evidenziare il problema dell'icone pedagogica, cosa cara, sappiamo, piuttosto all'Occidente, ma non solo. O anche le semplici questioni, o non semplici, psicologiche, cosa cara, piuttosto all'Oriente, ma non solo. Non intendo qui sottolineare aspetti antropologici in senso figurativo, tanti episodi, fasi, elementi, sentimenti, tutte cose che fanno fenomenologia che qui debbo rinviare o anche presupporre. E appena appena sta facendo alle questioni psicologiche vista, udito, da allargare, a mio modo di vedere, a tutta la questione, oltre la parola, a tutta la questione della musica, della danza, eccetera. Ma non è di questo, non è su questo che io finirò. Io parlo proprio di antropologia strettivista, in senso teologico, in senso filosofico e in senso culturale, di antropologia globalmente presa, insomma. Per procedere chiaramente, mi permetto di organizzare queste mie semplici osservazioni, con le quali rileggo anche qualche tornante classico, attorno a tre punti di uno schema puramente convenzionale e artificiale che qui indico soltanto, forse con qualche provocazione. È questione di tempo, io non voglio abusare della vostra paziente cortesia e del resto lo stesso lavoro per natura sua comporta piuttosto una lettura con documentazione allegata che negli atti tenterò di dare. I tre punti di questo mio schema artificiale sono dunque: primo, l'aspetto iconico dell'uomo; secondo, l'aspetto linguistico dell'icone; terzo, l'aspetto culturale dell'icone. Primo, l'aspetto iconico dell'uomo. Il problema è fondamentale, ovviamente. Perché è necessario, e ritornate da ieri sera a stamattina come ritornello, e non solo tra noi, non abbiamo fatto altro che pallidissima eco a tutto quello che è capitato nel primo millennio, tra immagine e estetico si ponga il rapporto di natura, che è la sinopsi appunto di ogni conodulo. Se no, è ovvio, la mediazione scenica non prende senso, o non prende tutto, o non prende chiaramente il suo senso. Dunque si tratta per noi di leggere tutta una tipologia di tale rapporto, perché è inutile insistere sul rapporto, ci siamo tutti d'accordo. Ma non è senza tipologia il rapporto tra segno e prototipo, immagine e archetipo. La tipologia è necessaria, se no la mediazione tecnica risulterebbe univoca o ambigua. Ecco, il problema dell'antropologia ad immagine e somiglianza è dell'antropologia, dell'uomo ad immagine e somiglianza, e dell'ego immagine, e dell'ego incarnato immagine polare e androica, e della Chiesa, un po' trascurato questo aspetto, ad immagine e somiglianza del Cristo storico e capo del corpo, e dell'Eucaristia, che cosa si torna un po' più facilmente, dell'Eucaristia, immagine eminenziale, anche ieri l'abbiamo ripetuto. Tipologia, se metta poi con un'altra chiave ancora, è la tipologia della presenza. La presenza dell'archetipo nella mediazione, la presenza del significato nel significante. Ed è questo il problema crocevia e via crucis insieme della diversità tra l'Oriente e l'Occidente nel guardare l'icona. Non tanto, procediamo con ordine in questo senso. I libri carolini, primo sette, rimproverano a Nicea II di appoggiarsi indebitamente sulla d'immagine e somiglianza genesiaco, perché, dicono, il termine immagine va inteso relativamente allo spirito dell'uomo, alla ragione, alla volontà, e il termine somiglianza va inteso relativamente alle sue facoltà morali, con cui e non con la sua forma l'uomo somiglia a Dio. Dunque, i libri carolini si rendono perfettamente conto che qualora l'uomo sia ad immagine e somiglianza globalmente, questa è l'antropologia iconica cristiana, non è manichea, non è radicalmente platonica, non è comunque dualista, allora il nesso di natura tra icone e Dio è tale da rendere ineccepibile l'argomentazione iconica nicea. Ma facendo ciò, criticando cioè Nicea 2, essi dimenticano la spiegazione genetica di Ireneo, l'uomo di Ireneo, non una parte dell'uomo, e ad immagine e somiglianza di Dio. L'anima e lo spirito sono una parte dell'uomo, non l'uomo. L'uomo è mescolante d'unione dell'anima che riceve lo spirito del Padre, congiunta alla carne plasmata ad immagine di Dio. E come? Dopo Ireneo, qui non citare Gregorio di Nissa e la sua antropologia, l'antropologia del perito pastorista antropo, laddove egli mette in rapporto, in quel rapporto linguistico in cui l'ha messo, le mani dell'uomo e la libertà dell'uomo, per dire che nelle mani e nella libertà dell'uomo sta l'uomo, perché lì sta nelle mani che gesticolano e nella libertà che egli esercita il suo essere ad immagine di Dio. Ad hoc mi risulta inequivocabile, lo lascio giudicare a voi, è un Sergio di Cesarea, che è uno realmente iconoclasta ante litteram, e che a due lo taccia anche di arianesimo. Tanto più, quanto meglio egli si serve dell'argomentazione che adesso ne riprendo, appunto per invogliare a non fare le immagini. Egli scrive nella sua famosa lettera a Costanza, prima del 339, «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». Ora, se stimiamo le immagini del nostro Salvatore, prima della visione e della contemplazione che ne avremo faccia a faccia, quale pittore troveremo migliore, più preciso di lui stesso, del Verbo di Dio? Dunque, non facciamo immagini. Ma dunque, l'uomo non è soltanto ad immagine di Dio globalmente, gli è anche somigliante globalmente, in forza della pittura graziosa che il Verbo fa di noi stessi. Quando dunque a Nicea 2, nella sesta sessione, il diacono Epifanio di Catania legge, o secondo altri, compone, nell'ultima delle mie tre interventi su questo, sentirò qualche cosa, dice: gli usi alieni che si fanno della materia nella pittura non implicano che essi siano usi inutili. Infatti l'uomo è un essere dotato di sensi, nella stessa sessione, inutile ricordarlo, si sta confutando loro. Non si sta concedendo, Epifanio non sta concedendo qualcosa alla debolezza sensibile dell'uomo. Egli sta puntando invece sulla capacità antropologica dell'iconismo globale dell'uomo. Non per nulla, poco più là, Epifani aggiunge che i segni sensibili si conducono all'intelligibile perché proprio della condizione umana sorge la necessità di servirsi di segni stabili dai tempi, ma ciò avviene perché quello che percepiamo con l'udito e vediamo con gli occhi è analogia in noi, nella nostra costituzione, del prototipo. Guardini, ritorniamo a Guardini, cito adesso dall'Occhio e la conoscenza religiosa, secondo di Petretti. I sensi, dunque, acquistano una nuova validità, non in senso sensualistico. Al contrario, sensualismo e intellettualismo sono superati perché entrambi appartengono strettamente l'uno all'altro, si appartengono. Lo strumento sensibile, il puro intelletto, sono entrambi moderni, tra virgolette. Ciò che importa è l'occhio vivente, l'orecchio vivente, i sensi la cui estensione va dalle minime cellule fino al cuore e allo spirito. Da questo punto di vista, conclude Guardini, l'antico adagio nihil in intellectum et prius in sensu acquista, grossa mia, modernamente il suo valore profondo. Laddove dunque vivente equivale a divino partecipato, a divinizzato, la teosi, lo sapete, dei sensi di Dionigi, dello pseudo Dionigi, o dei appresso del Cavasilas o di Palamas, perché no? Anzi, appunto l'accenno al Palamas mi fa riandare alla esegesi patristica, soprattutto greca, della trasfigurazione, laddove, secondo i padri, non è Cristo che cambia di forma, ma sono gli apostoli che cambiano di senso. La trasfigurazione è il cambiamento dei sensi, dei tre, non il cambiamento di forma di lui, delle nomi. Due, l'aspetto linguistico dell'icona comporta, secondo me, tre prospettive che teologicamente sono lo stesso per cui l'icone ha costituzione simbolica, cioè ha a suo modo costituzione sacramentale. Anche questo termine ieri sera è venuto. Tre prospettive, che mi è facile qui in questo mio studio, come vedete, molto per accenni, forse anche in tutto per provocazioni, mi torna bene riproporle così, a colpo negli occhi. Tre prospettive che sono state allegorizzate culturalmente, è interessante anche il fatto, non sto giocando, che il rapporto tra linguaggio e cultura, lo distrosso insegna, ovviamente è tale che mi giustifica questo mio uso, questo mio ricorso a allegorie culturali per andare anche per esprimere anche fatti linguistici. Cioè, l'icona è acheropita, veronica, miracolosa, sempre, e teandrica, cioè, sempre, non soltanto questa icona è veronica, quest'altra icona è acheropita, quest'altra è miracolosa. L'icone per statuto, per natura sua, è acheropita, veronica, miracolosa o non è. L'acheropita di Abdar ad Edessa provoca, come tutti sappiamo, delle riproduzioni ad est e a ovest, a nord e a sud, è il caso di Dio. Così il Liber Pontificale, nel 752, riferisce che Papa Stefano II, a piedi nudi, da San Giovanni a Santa Maria, procedent in sacratissima immagine Domini Nostri Gesù Cristo, che acheropoieta non incupatur, implora l'aiuto di Dio di fronte alla minaccia di Astolfo, re dei Longobardi. E della acheropita romana si parlerà a Nicea e i vescovi siciliani confermeranno che una donna, vedova, che soffriva di flusso di sangue, venne a Roma e ne fu guarita. Il collegamento dell'acheropita in questo senso con la veronica, che ne sia dell'etimologia, culturalmente come tale viene presentata, veronica equivalente di vera icone, è evidente. L'anonimo piacentino intorno al 570 riferisce immensi divinus pallium in quo est effigies salvatoris quel dicum tempore illo persiste pacem sua mineo et remantiste imaginem ipsius ibi. E anche le veroniche si moltiplicano come le acheropite. Teodoro Pellegrino nel VI secolo va a Gerusalemme, tutto ciò avviene intorno appunto al VI-VII, e non è casuale, chiaro. La tesi iconoclasta non spunta neppure come tesi iconoclasta, come un punto, sono fatti culturali, tanto. Dunque, va a Gerusalemme per venerare l'immagine del Cristo lasciata impressa sulla colonna della flagellazione dal suo taglio e dal suo accostamento. Ogni icona è Veronica. E questa volta, anziché spiegare, scusate che si sono siciliani, questi aspetti poeti, cito Paul Claudel, Via Crucis, stazione 4. Quella donna, che poi è catastatizzata, come si conviene ad ogni buona allegoria culturale di quelle benevolità, quella donna si lancia nel colmo dell'insulto, prende il volto di Gesù tra le sue mani. Insegnati, o vera icone, a sfidare la vita, poiché l'uomo per il quale Gesù Cristo non è soltanto una figura, ma è la verità, la sua norma di vita è capovolta, i suoi motivi oramai sono diversi, qualcosa in lui sfugge sempre ed è altrove. Sia guardingo ai suoi passi, perché gli insegno, perché il cristiano è vera icona del suo Cristo, pur se indegna, la sua faccia è riflesso, banale, ma del volto di Dio. Lascia che la guardiamo, che lo guardiamo il suo mantile, il suo lino in cui raccolto, o vera icona, il volto del vendemmiatore nel giorno dell'ebrietà, in che per sempre si imprimesse la sua immagine, intrisa del suo sangue, le sue lacrime e dei nostri sposi. Non a caso la terapista preferisce la glorificazione e la signoria, la Veronica invece la umiliazione e le passioni dell'inno della lettera di Vincenzo, perché le due culturalmente, Aterofita e Veronica, sono un unico inno linguistico. In altri termini, non fatta da mano d'uomo, vera icone da lui stesso impressa, sono gli estremi per cui le componenti linguistiche, rappresentazione, espressione, comunicazione, si realizzano tutte e tre puntualmente nell'icona. L'icona è rappresentazione del mistero, è espressione di un soggetto plurimo, ci ritorneremo subito, che è antropologico, ecclesiale, teandrico, ed è comunicazione estetico-liturgica, cioè teofania, e ci ritorneremo subito. Stando così le cose, è un miracolis ogni icona, è miracolosa, sempre, non questa o quella. Perciò nei santuari, pur senza sapere, si può continuare a scrivere tranquillamente vera e figlia miracolosa, un'icona. L'operatio artistico, di cui ieri sera ancora si parlava, si sa, è stato ripetuto anche stamattina, a Nicea 2 riceve uno statuto proprio, che è statuto nuovo, tra virgolette, cito Guardini, moderno, è lo statuto, se piace così dire, di un platonismo riformato, comunque uno statuto di un'invenzione rappresentativa, espressiva, linguistica, a suo modo, e ci ritorniamo nel punto. È stato notato che Piero Scazzò ha concluso che nell'icone da un concetto di metafisica platonica si passa per sé ad una soteriologia. Il fatto è evidente a chi nell'icone ritrova la presenza simbolica. E qui per avere un'immagine mi rifaccio alla lettera che il patriarca Tarasio scrive a Papa Adriano finito al Sena il Niceno II, il 28 ottobre del 787. Quando tutti fummo seduti, e gli dice, e peraltro, la relazione degli attentissimi segretari e notai, di Atene, che riferiscono le prime sette, quindi le sessioni di Nicea, l'ottava, come sappiamo, è la Magnaura e non è una, non acquista la ritualizzazione, non prende, non assume la ritualizzazione liturgica, dunque, quelle registrano e Tarasio scrive, quando tutti sono seduti, allora costituimmo presidente della nostra assemblea Cristo, perché per un già noto da Efeso importa. Se abbiamo messo a sedere sul suo trono l'Epimachia, l'Evangeliale. Amalario dirà, Evangelium Christi. L'Occidente ha fatto poca eco proprio su tale punto, e torniamo al punto della presenza. È stato il patriarca Nicefaro, carissimo anche a me, oltre che stamattina è stato messo in evidenza, che era segretario dell'imperatore ed era quello che, prima di essere patriarca lui stesso, ed era quello che nelle sette sessioni di Nicea sedeva sempre accanto al lambone perché rappresentava l'imperatore. Dunque, contro Leone V è stato lui che per prima, a mio parere, ha argomentato. Le icone hanno valore per la fede degli illetterati perché gli annunciano la salvezza, e insieme dei letterati perché li introducono questi e quelli tutti al mistero della divina condiscendenza. Infatti le icone parlano la filantropia di Dio, e questo è il linguaggio del discorso. Due fatti sono qui in questo aristotelico, come è stato ricordato, presente. Due fatti che sono gli estremi linguistici e simbolici del mio argomentare. Il rapporto parola-immagine, il rapporto letterati-illetterati. Ed entrambi i due fatti, inizialmente, confluiscono a Costantino Napolitano IV. Il canone terzo, che è stato nell'870, dice: stabiliamo che la sacra icona del Signore nostro Gesù Cristo sia venerata con lo stesso onore del libro dei Santi Evangeli, come era. Poiché, come dal discorso delle sillabe che si trovano nel libro tutti riceviamo salvezza, pare che abbiano letto di Gesù, così dall'operazione iconica dei colori, tutti, e gli uomini di scienza e gli uomini sprovveduti, attingono la promozione che ne viene offerta. Infatti, ciò che il discorso delle sillabe, se stesso il tratto dei colori, proclama e raccomanda. Se dunque, tutta un'anatima precisata, qualcuno non venera l'icone del Cristo Salvatore, è un continuo, non veda la sua figura nella seconda venuta. Il contrappunto di Guardini, come ho promesso a un signore, stavolta dall'immagine sacra di un disegno. L'icona serve al mistero, perché il suo compito non consiste nell'istruire didatticamente e nell'influire pedagogicamente, ma consiste nel proclamare l'Epifania, nel proclamare la Teofania. Essa annuncia allo sguardo e al cuore del credente la via, e annuncio e viva rappresentazione verso l'uomo in linea discendente, ed è via di adorazione, di amore verso Dio in linea ascendente. Interrompere questa finzione, questa simbiosi, significa interrompere la sua dinamica e distruggerla dall'interno. Questo va e viene, questo smoto linguistico è appunto tutto il senso della rappresentazione, espressione di cose. Terzo ed ultimo, l'aspetto culturale dell'icona. La cultura è implicata nell'antropo, lo costituisce per la sua parte, ed è implicata nel linguaggio, lo determina e lo qualifica per la sua parte. Ora qui, nel nostro caso, parlare di cultura dell'icona significa parlare della Chiesa, perché la Chiesa è la cultura che gli antropologi in questo caso chiamerebbero orizzontale, in cui si colloca il nostro fenomeno. E ho detto già che questo aspetto ecclesiologico io non lo vedo per niente riproposto. E secondo me la via antropologica e linguistica mi si porta dritto dritto. Gregorio di Nissa: colui che ha fatto della Chiesa il suo proprio corpo, ha formato la Chiesa a sua immagine. Se uno guarda la Chiesa, vede Cristo. Cristo dei Vitamoni. San Michele Montefusco a Ravenna, in quel famoso mosaico andato di scritto, infatti oggi a Vienna, il libro aperto dal Cristo portava scritto: Filippo, chi vede me, vede il Padre. Ma questa è la metà dell'aspetto culturale e linguistico. La metà dell'aspetto che antropologicamente gravita sull'incarnazione. Quell'aspetto che antropologicamente tocca la persona, pittore o fruitore che sia, nella sua radice singolare, e che è legata dunque direttamente, io preferisco legarla direttamente al logo. Si vede me, vede il Padre, il logo incarnato di me stesso. Ma c'è l'altra metà, perché l'aspetto antropologico sia completo, quello gravitante sulla Chiesa, cioè l'aspetto antropologico che tocchi la persona del pittore, del fruitore, poco importa, nella sua costituzione culturale, storica, del singolo che vive nell'esistenza. E che io, evidentemente, non è solo per gusto di Panda, ricollego direttamente allo pneuma, perché è chiaro che lo pneuma che agisce, che fa, parlo di antropologico, della Chiesa, cultura. Dunque, il pittore e il fruitore, in questo modo, è qui che apprendono come riformare lo spazio-tempo, e senza riforma dello spazio-tempo non c'è raffigurazione. È qui che apprendono a fare la sintesi del soggetto-oggetto nel loro immaginario, ma un immaginario che è quello teologico. È qui che si fa l'esperienza di cui il pittore e il fruitore raccolgono i frutti. Cioè, è questo il luogo e il momento esistenziale, spirituale, liturgico. Voglio dire, la memoria di Cristo, ritornerò subito sulla memoria, è delineata dallo Spirito Santo ed è della Chiesa. Noi non abbiamo, torniamo a Cherotite, una memoria del volto di Cristo. L'icona non ripropone il volto storico del Cristo, se non nella storia che fa lo Spirito nella sua Chiesa, delineando di giorno in giorno i suoi tratti. Lui, il suo ministero, il ministero della geografo, consiste nel diritto dovere di farsi ed essere eco di questa memoria ecclesiale del volto di Cristo, e ugualmente nell'obbedienza della fede e nell'autonomia artistica. Qui si può porre modernamente, a mio parere, tutto il problema che ognuno ha risolto storicamente secondo la sua cultura di questa difficile ma non impossibile sintesi: l'obbedienza della fede e l'autonomia artistica nel contesto della tradizione, anche questo è venuto fuori, ecclesiale. La meraviglia, gli occhi attoniti del pittore Sagal, così dice il pittore, la meraviglia è la struttura profonda del simbolo, e la meraviglia e la memoria fanno questa sintesi. Con tale chiave, ad esempio, solo con questo, si può leggere anche con questa, ma questa è essenziale, è da leggere, ad esempio, il problema che appena è stato sentito registrato del femminile nella questione dell'iconografia e dell'iconologia. Si registra Irene e Nicea II, con tutto ciò che ha di complessità storica, politica, eccetera, Teodora e Costantinopoli IV. E anche questo con tutte le sue complessità, con tutto ciò che comporta. Ma c'è anche quella chiave da mettere in evidenza. Qual è l'atteggiamento del femminile nella tradizione cristiana? Oppure le donne miniaturiste, che nella quantità sono di più e nella qualità sono migliori, ormai si comincia a registrare, di questi luoghi comuni di mestienza non lasciano supporto. Ovvero un altro problema, il problema del rapporto complessissimo e attualissimo tra committenza, consulenza, operatore. Un problema che nel discorso della memoria ecclesiale può trovare degli, non degli spunti, ma delle buone ermeneutiche. Ma ho detto ripetutamente memoria. Basilio Magno, come non andare al divino Basilio pure noi, che ama l'arte come la ama suo fratello Gregorio, ed è lontano come suo fratello Gregorio e tutti i capaci, dalla problematica esplicita dell'iconodulia, no, l'immagine ha funzione di stimolo spirituale perché il cristiano se ne interiorizzi la evocazione. Parlare di memoria con Basilio, non posso che devo far presto, che citare Gribomont, che i suoi scritti su Basilio hanno privilegiato, ha prestato attenzione privilegiata sicuramente al problema della memoria dei Basilio, tutti sappiamo che la memoria dei Basilio. L'immagine terapista, vera icona e miracolosa, sgorga dalla memoria della Chiesa e produce la memoria del cristiano. Qui si stabilisce cioè un circolo antropogenetico. Il circolo antropogenetico significa si pone laddove, culturalmente, quello che è causa diventa effetto e quello che è effetto diventa causa in un circolo, reciprocamente. Qui si stabilisce il circolo antropogenetico cristiano-chiesa, la dinamica capo-corpo, la dinamica Cristo globale pneuma. Ancora lamento che tutto ciò sia lasciato troppo, del tutto, vorrei dire, sotto silenzio. Questa memoria inizia dall'avvenimento storico, certamente. Leonzio di Neapoli, ripetutamente citata in Nicea 2, nel VII secolo, nei suoi trofei di Damasco, citata in Nicea 2, afferma. Noi facciamo le immagini memoria di ciò che Cristo ha compiuto per noi. E ugualmente i suoi santi, credo che abbiate notato che io non mi sono fermato per niente, né all'icone della Madre di Dio, né all'icone dei santi, ragion veduta per andare al discorso radicalmente. Il resto è analogo, e negli atti forse qualcuna di queste analogie almeno la porrò. Germano di Costantinopoli, al momento dello scoppio della grande tragedia, e il patriarca deposto da Leone III di Sarico, come tutti sappiamo, le immagini sono memoria dell'incarnazione, e la lettera a Giovanni di Sinai. Ma questo è l'Oriente. E l'Occidente su questo punto. Gregorio II, se lo siamo già scordati. Gregorio II scrive a Germano, allo stesso Germano, è bene dipingere la forma umana che ci fa memoria della sua genesi e ci guida così per mano al mistero della redenzione. Andiamo cauti nel generalizzare l'Occidente soltanto pedagogista o pedagogo che guarda l'immagine. E puntualmente a Nicea, sesta sessione, ancora il mio caro Epifanio. Le arti vengono da Dio e vanno rigettate soltanto quando conducono a cose indegne. Non mi conto, le arti. Perché tutto ciò che fa memoria di Dio piace a Dio. E le arti fanno memoria di Dio. L'argomento è allargato. L'intenzione che ispira l'opera ne esplicita il valore. Infatti, essa intenzione fa comprendere il mistero della divina economia. Tutto ciò oggettivamente, ma anche l'aspetto soggettivo. Il pittore, cioè, in quanto evocatore, e a suo modo il scultore. Egli si fa la memoria di Dio e fa la memoria dei. Tra parentesi, non dimentichiamo che per Basilio, da cui ho preso le mosse, memoria dei è sinonimo di preghiera. Ma inoltre, egli, evocatore, raccoglie quella sorta, direi, di solidarietà semiologica universale, perché esiste questa solidarietà universale linguistica. Quella che Giovanni, a mio parere, da Masseno ha intravisto e che con troppa frequenza, ma con non altrettanta acutezza, gli viene anche imputata a cedimento, come egli credesse, verso una sorta di iconismo generale. Dico della tipologia che ritroviamo nell'Orazio III, Prosacus Imaginis. Una tipologia dove tutto è ad immagine. Immagine in verticale. Giovanni da Masseno. L'uomo è ad immagine perché è me, logo, neuma. Le cose create, la materia, anche nell'uomo e la corporeità, sono ad immagine perché sono epifanici. L'Antico Testamento, immagine del Nuovo Testamento, in orizzontale. L'immagine è segno che richiama alla mente nel presente il passato già avvenuto. L'immagine, scritto è lo scritto o è altro, qualunque altro di poetico. È una tipologia, come si vede, che abbraccia tempo ed eternità, passato e presente, tempo e spazio. La filosofia gli offre il supporto sistematico e la teologia gli offre il senso pregnante e definitivo. Cioè, se si stabilisce un antropogramma, che certamente è biogramma, ma lo è biogramma, essendo anche insieme cosmogramma e teogramma, non gioco con le parole. Se si preferisce è la biosfera celeste di cui ha parlato Zosimos nella sua teologia della terra. Ovviamente il tema è immenso, ma a mio parere è risolutivo. Concludo. Si parla della moda delle icone o le icone tornate di moda. E se si vede, io sono da questo, in ciò un motivo di speranza e comune. Ma io riporterei questa speranza agli aspetti antropologici. Sia perché l'apertura antropologica è una inaugurazione esistenziale al Michele II, non c'è dubbio, ho capito che scritto. Sia perché l'antropologia oggi è ritenuta imprescindibile pressoché da tutti. Sia perché essa comporta la sottolineatura della Chiesa, che come ho cercato di mostrare da nessun'altra pista è venuta fuori, sia perché dunque coinvolge direttamente in causa lo Spirito Santo. Grazie di cuore di questo discorso così denso che non ardisco commentare, soltanto esprimo il godimento con cui lo abbiamo ricevuto. E direi quasi in qualche momento anche un certo stupore, no? Che fa parte però della contemplazione di questo mondo di cose. Ho l'impressione che molto di più di quel che mi immaginavo nell'allestire questo corso, forse stanno maturando anche certe idee, certi parametri, direi sistematici, un po' per codificare l'approccio in profondità a questo mondo di cose, e in questo senso mi sembra che la relazione proposta sia estremamente preziosa. Noi avremo piacere di rileggerla, di meditarla anche negli atti, ma sento già che gli atti stessi da questa offerta avranno un pregio del tutto particolare. Ma adesso apro subito la discussione, o meglio, prima di passare a questo, un accenno invece molto più terra terra. Coloro che, pur essendo qui, che vanno e vengono perché abitano in città o così via, non sono formalmente iscritti nell'elenco di partecipanti, ma che desiderassero rimanere con noi a pranzo per il semplice motivo pratico di essere presenti alla ripresa alle 2:30, possono e sono cordialmente invitati a restare con noi a questo breve, non simposio certo, ma questo breve ripostillamento, ovvero alla vecchia Trento qui di fronte, in modo che risparmiamo molto tempo, profittiamo anche di questo contatto, forse per prolungare i nostri colloqui e possiamo riprendere a tempo debito, ovvero a ciò che si possa concludere per quelli che devono partire. Ecco, subito la parola al professor Bo e iniziamo subito il colloquio. Prima di tutto ringrazio Monsignor Valentiano per questa splendida relazione. È veramente stato per me profondamente stimolante. Forse il mio intervento però è un po'... Vabbè, cercherò di dire quello che ho sentito, ho percepito un po' sotto il discorso che veniva proposto. Ed è questo. Dunque, si è tentato in maniera affascinante proprio di legare questo discorso dell'icona alla Chiesa, alla storia. Mi pare con una insistenza notevole. Io mi domando però se questo discorso faccia dia davvero ragione alla dimensione storica che qui entra in gioco. Ecco, la mia impressione è che parlando di Chiesa e parlando di storia, tuttavia si produca uno spostamento notevolmente violento dell'una e dell'altra proprio nella dimensione della neonatologia, del mistero, ma la si sottragga proprio alla corposità della storia. Ecco, l'immagine non è fatta da mano d'uomo. Si diceva già ieri, l'artista domina soltanto la forma, il contenuto lo riceve, la tradizione, la paralisi, eccetera, eccetera. La dimensione ecclesiale è soprattutto quella, la unità ecclesiale, stabilita a livello di pneuma e dal pneuma. Ecco, tutto questo, mi pare che risenta proprio in una maniera molto chiara di una interpretazione platonizzante o neoplatonica. Mi pare che in definitiva, ecco, interpreta la storia, se si vuole, persino come, ecco, cito Rante, lo storicismo, ogni epoca, ogni realtà è immediato rapporto con Dio stesso, in salvarlo, no? Ma questo non rende più ragione del dinamismo interno, proprio delle esperienze della storia. Questo mi pare che resti un po' esautorato. La storia diventa una quantità discreta, non una continuità. Mi pare che l'elemento, direi, più preoccupante della storia, e per la storia, semplicemente, questo di garantire la sua continuità, la sua dinamicità, la sua vita. Ora finisco. Questo discorso potrebbe essere una critica estrinseca. Mi pare che invece abbia un aggancio proprio al discorso stesso e dica una tensione interna al discorso che si è fatto. Martino Valenziano ha detto ad un certo momento, ecco, tutto questo ha la sua origine nell'evento, dall'evento certo. Ma c'è una ragione ancora più profonda, è questa. In fondo, la definizione dell'icona è stata data totalmente, costantemente in termini cristiani. E io mi domando, ma non è questo, è far rilevare proprio la individualità di un momento storico nel quadro della storia globale. E com'è possibile, se si valorizza in maniera così determinante una storia individuale come quella cristiana per definire l'icona, e poi questa definizione tenda così fortemente verso una destoricizzazione? Ecco, ma non sono obiettive queste che faccio, sono perplessità che io ho cercato di esprimere e che offro come segno proprio della mio cordiale ascolto a questi. Grazie. Il discorso devo dire che mi è piaciuto moltissimo, però mi ha provocato lei, visto che ha parlato dell'aspetto linguistico dell'icona, e quindi che l'immagine è sempre aterotica, veronica e miracolosa. Qui, tra parentesi, no? E porgo a lei una domanda. Quale credito dà a coloro che sostengono l'ipotesi che l'immagine aterotica del volto del Signore viene dalla Sindone, dal volto della Sindone? Ecco, chiedo subito la parentesi perché questo susciterebbe anche altri problemi. Però, lei linguistico, poi ha detto culturale. Ho reagito al discorso della storia perché quando si parla di linguistica a me viene sempre spontaneo pensare a Saussure. A Saussure, Ecco, loro sanno che in fondo il pensiero di Saussure è focalizzato in quel bellissimo paragone della partita a scacchi, che dice tutto e risponde in fondo anche un po' forse alle sue difficoltà. Cioè, nella partita a scacchi ogni pezzo ha un suo valore, l'alfiere, la torre, eccetera, però il valore di ogni pezzo è determinato nel gioco dalla posizione in cui il pezzo viene a trovarsi nella partita. Ecco, appunto, esattamente, linguaggio e cultura. Allora, a questo punto forse si trova una risposta alla corposità della storia, che secondo me non dovrebbe literalizzare la storia, rischio sempre grosso, e quindi finiremo con Hegel, ma che invece dovrebbe renderci più consapevoli alla imprevedibilità di questa storia. E visto che siamo nelle immagini, mettiamoci i giocatori di carte di Cézanne, che uno che ha giocato la carta, ma la vera storia non sia quando la carta è giocata, ma è nel momento in cui si deve giocare la carta, no? E allora quello ti fa saltare anche il cappello in testa, come nei giocatori di carte di Cézanne. Ecco, allora, ultima cosa, allora, quando lei ha parlato di culturale, e devo dire che mi ha allargato il cuore, legandolo poi al discorso della Chiesa, qui nasce il problema della inculturazione, le icone, abbiamo visto le icone rumene, anche queste sono molteplici e si riproducono e creano scuole, eccetera, eccetera. E poi ha parlato allora di simbolo, ecco, per lei il simbolo va nel senso del culturale o nel senso del linguistico? Perché se va nel senso del linguistico, lei intuisce, allora andiamo con la semiotica, allora dobbiamo dare ragione a Eco e alla sua critica ai segni iconici. Se invece va nel senso culturale, allora c'è altro discorso. Io ti ringrazio per la tua relazione, che mi è molto interessata, soprattutto per la parte che riguarda la volontà di inglobare il tema della Chiesa, che era rimasto un po' fuori. Mi aspettavo però per la parte antropologica, cioè ho avuto l'impressione che tu, pur essendo uno specialista nell'antropologia, alla fine sei smittato subito sull'aspetto teologico. Mentre io vorrei che tu approfondissi il momento antropologico che è soggiacente a questo recupero dell'ecclesialità, perché improvvisamente, mentre prima è stato un discorso dove l'uomo icona di Dio e poi il Cristo che è una individuazione, che guai se rimane così solo individuata e non chiede che tutta una chiesa, una comunità lo continuamente lo ripresenta. Non deve essere una memoria di qualche cosa che è già stato fissato, non abbiamo la memoria della sua icona, ma deve essere per così sempre riprodotto, eccetera. Lì subito hai parlato dello Spirito Santo, mentre io vorrei che tu approfondissi il discorso veramente antropologico, perché come antropologia, come esigenza antropologica, hai messo in evidenza più l'esistenzialità, cioè quasi un'antropologia dell'esistenziale. C'è necessità di una concretezza esistenziale, mentre io vedrei anche importante il discorso di come e quanto l'uomo comunità, l'uomo universale, con la varietà creativa di esprimere l'umano che è identico in tutti ma esige anche la diversità, cioè una fondazione antropologica del contributo ecclesiale per continuamente, direi, raffigurare, ma meglio tentare di dare l'icona di Dio e anche l'icona di Cristo. Da questo punto di vista, allora, si potrebbe trovare una fondazione anche antropologica per la soluzione di quel problema che è emerso già ieri e anche stamattina, cioè quanta e quale la creatività possibile, per cui una chiesa come tale deve essere cattolica nella sua tradizione, ma anche permettere, anche esigere, il contributo di tante creatività, la varietà, la variazione, pur dentro l'unità di fondo. E in questo senso io sento un problema però anche a livello puramente antropologico dell'artista, di qualsiasi artista. L'artista secondo me, ma questa è un'antropologia che vorrei sollecitare, è qualcuno che al tempo stesso più profondamente personale di tanti altri, l'individualità e la personalità si esprimono al massimo, ma nella misura in cui egli attinge da un fondo comune, cioè si esprime nell'artista l'umano più personalizzato, ma anche l'umano, direi, che diventa l'eco di, per cui si ritrovano tanti nell'artista, più che nell'uomo forse della parola, a meno che non sia un artista come sei tu anche della parola. Cioè, dentro la produzione artistica, in particolare in quella religiosa, si avverte, direi, la sensazione dell'ammirazione della individualità originalissima dell'artista, ma anche una consonanza che trova in lui la partecipazione comunitaria, quasi direi, del soggetto umano collettivo. Per cui allora il dogma del corpo mistico, della comune santorum, per cui, direi, si sublima l'individualità e la personalità, ma insieme si celebra la comunione, è importante anche a livello antropologico-culturale, superando quella tentazione, soprattutto occidentale, secondo me, che è degenerata progressivamente verso l'individualismo, cioè questa valorizzazione dell'uomo soltanto in quanto si configura individui, e non invece l'uomo collettivo, l'uomo come comunità umana, come unità del genere umano. Cioè, la mia indicazione era questa. Non arrivare subito a letture teologiche, che mi trovano molto molto consenziente, subito lo spiego, ma cercare di fare, come hai fatto prima, far giocare di più l'antropologico anche nel momento di valorizzazione della Chiesa. Scusi. Beh, evidentemente sono tre che hanno preso la parola, ma hanno sollevato il giro dell'orizzonte e mi pare giusto e sono gratissimi. Non si tratta di rispondere, rientro nel colloquio un po', rivolgendomi a ognuno direttamente, dei tre che sono intervenuti, un po' anche mettendo in conto. In maniera provocatoria, io non l'avrei detto, e l'ha tirato fuori il professor Babolini. Allora, io penso d'essere tanto platonico, Giampiero, quanto tu sei Giulia, né più né meno. Cioè, evidentemente ci sono nel nostro orecchio, nella nostra intelligenza, chiaro, degli affioramenti a cui forse siamo tentati di tematizzare un po' troppo presto quello che facciamo. Mi pare che sarebbe così. In altri termini, io qui devo dire, e non solo a te, ma anche al signor Verini e al professore, il fatto che ho presupposte troppe cose. Qualcuna ho cercato di accennarla, qualcuna l'ho taciuta, qualcuno ho cercato di emblematizzarla con Chagall all'inizio, con Guardini. E voi di questo mi scuserete, ma mi darete atto che non potevo che far così. Ho presupposto troppe cose. Per esempio, ho presupposto troppo della fenomenologia. E qui allora non escludo niente di quello che il Monsignor Sartore domanda. Ma evidentemente va esplicitata, che è un altro discorso. Così lì, il problema della corposità dell'immagine non è che mi impedisce di vedere la cheropita nella sua consistenza di fatto culturale. La cheropita di cui io parlo è un fatto culturale, una proiezione culturale. A me la cheropita non dice niente in quanto tale, perché non fatta da mani d'uomo, per me, che seguo un'antropologia cristiana, corrisponde né più né meno che ha fatta da mano d'uomo ad immagine di Dio. Quindi il problema è tutto in giro in questo senso. Culturalmente non potevano che proiettarla nel non fatta da mano d'uomo. Così come il discorso della Veronica che si imprime non toglie nulla alla corposità della storia. Bisogna misurare la densità, lo spessore di quel che vuol dire la genesi. In altri termini, io qui ho molto presupposto di tutto quello che è la Chiesa e il suo rapporto con il Regno, lo spirito e la sua influenza nell'esistenziale, senza che perciò io abbia voluto da una parte ridurre all'esistenziale, né d'altra parte proiettare o delegare al dato dello spirito. Il mio tentativo è esattamente il contrario, è quello di vedere l'azione nella storia. E domanderei, lasciate che tu mi entusiasmi, che noi misuriamo la corposità, come tu hai detto, mi piace, dell'avvenimento kenotico di Cristo nella storia. La corposità, la densità della signoria anche escatologica del Cristo nella storia. E analogamente, cosa che per noi occidentale è difficile, mi scusi il mio fattore, la corposità, me lo perdoni lei teologo, dello Spirito Santo nella storia. In altri termini, quando io parlo della Chiesa, non è che con ciò voglio diventare un gioacchinista, ma io vedo lì in un certo senso, in un certo modo, realmente la verificabilità storica dello Spirito. Quindi se noi misuriamo questa densità, però capisco che va esplicitata, e allora forse molte di queste perplessità potrebbero un pochettino, quantomeno, attenuare. Lo Spirito nella storia per me è uno dei punti determinanti. Lei mi ha sentito parlare più di una volta, mio signore, anche lei. Lei sa che io ho fatto la promessa a me stesso che mai aprirò bocca se lo Spirito non c'è. Evidentemente non in maniera artificiale, ma perché sono convinto che veramente la realizzazione storica, la realizzazione antropologica, la realizzazione culturale, la realizzazione linguistica ha uno spessore, un'identità neomatica. Inoltre io ho lavorato su due livelli, un livello storico, mi sono rifatto a Nicea un po' al clima che ci sta attorno, ho cercato di pescare in Occidente e in Oriente le voci che facevano al caso mio, e un po' sul discorso del moderno e dell'attuale. Quindi non è che io ho ripreso l'icone, ho voluto riprendere quantomeno l'icone nicena soltanto nell'interpretazione nicena. Io so che quel discorso non può che procedere, e per me l'evoluzione dello statuto esistenziale niceno, sia per il pittore sia per il scrittore, in questo appunto mi sembrava di averlo in questo senso stabilito, in questo richiamo alla solidarietà semiologica universale. Questa è una cosa per me estremamente importante. Semmai mi meraviglio del contrario, come nella sezione sesta, lì non si parli solo dell'icone, ma si parli dell'arte in quanto tale. È chiaro che tra arte, o meglio nell'arte, il discorso dell'icone è un tipo. L'arte, l'icone di Cristo è un tipo, ma per me analogicamente, io preferisco parlare di tipologie, ma il discorso è lì, per me è tutto quanto quello che ho detto applicabile, e Nicea 2 l'ha fatto già, non ha bisogno che di essere voluta, ha bisogno di essere, sviscerato, nucleato, esplicitato. Nicea 2 parla anche dell'arte, come fa Gregorio di Nicea, che non ho citato. È citato piuttosto per altro Gregorio di Nizza, per l'antropologia. Gregorio di Nizza non si interessa mai dell'icona in quanto tale, tranne che in quel brevissimo passo che, citato a Nicea come è stato citato, poi è diventato quasi l'unica parola del misteno, la commozione, eccetera. Ma più che a questo, Gregorio di Nizza è attento alla bellezza dell'arte. Attenzione, nessuno scandalizzi, statue complete. Veniva da Atene, aveva studiato ad Atene, sappiamo bene della sua cultura, dove si era formato. Gli piace l'arte, gli piace la scultura, lo dice esplicitamente. Allora, non perciò evidentemente diremo che Gregorio di Nizza trasferisce la scultura, la terza dimensione, giustamente all'immagine sacra, liturgica, però nella tipologia da stabilire, attenzione, non dimentichiamo che questa gente una tipologia la lascia intravedere, a noi esplicitare. Quindi io parlo piuttosto di tipologie, non escludo tutt'altro. Qui mi rifarei anche ad un altro problema. Il mio legame al linguaggio mi viene da due matrici, e forse dire anche autobiograficamente può essere una chiave di lettura. Io sono stato tra l'altro discepolo di Lévi-Strauss, e questo ovviamente in un certo modo mi sembra. Però ho tutte le mie simpatie a Stefanini, e Stefanini, nella sua estetica, mi insegna lei, professore Gaboni, non accetta per niente l'impostazione dei suoi studi. Evidentemente egli ripropone il problema del linguaggio con una sua originale interpretazione in campo filosofico e con una sua particolare apertura in una, verso un aspetto teologico. Perché allora il cristiano è qui? Ma perché certamente io sono di quel discepolo di mio Donzello, ho avuto tanti maestri per fortuna mia, che credono ad una filosofia cristiana. Credono cioè che sia possibile filosofare tenendosi nell'orecchio e nella mente categorie cristiane. Voglio dire, quando io da cristiano so del logo, il problema del linguaggio, per me, anche quando faccio filosofia del linguaggio, ha un'altra sonanza. Devo stare cautissimo dal punto di vista epistemologico, mi rendo conto, quello è un discorso di metodologia, di epistemologia, di professionalità. Ma il problema di fondo dell'assonanza, come faccio a svestirmi di questo? Soltanto che anche lì stabilirei una tipologia dal filosofico al culturale a eccetera. Poi una delle cose a cui io mi affiderei molto, lo dico a tutte e tre, mi confesso a tutte e tre, è il problema della cultura e, come giustamente ha fatto notare lei, il problema dell'acculturazione. Preferisco acculturazione ad inculturazione, lo dico sempre questo, perché per me è un discorso di correttezza antropologica, ma qui apriremmo un discorso, prendo il problema, interessante che siamo d'accordo sul problema. Cioè dire che cos'è cultura è dire tantissimo, a mio modo di vedere, di quello che voi domandate. Perché la cultura non è un qualcosa che sia staccato dall'esistente, dall'esistenzialità, ma non perciò ridotto ad esistenzialità o ad esistenzialismo. La cultura è la condizio sine qua non dello sviluppo, oltre che dell'habitat, e proprio perché lo è dell'habitat, del singolo. Io mi faccio nella socializzazione di cui parla Gaudium et Spes, antropologicamente fatto culturale. Ora, misurare lo spessore della realtà della cultura, ho l'impressione che può rispondere a parecchie delle vostre giustissime esigenze e strategie. Solo che io gli do tutta questa pregnante che qui ho sottaciuto. Quindi vi prego di leggere cultura da questo punto di vista. E acculturazione, o inculturazione. Perché cultura, soprattutto oggi, non esiste se non in una osmosi continua. Oggi siamo in un, addirittura gli antropologi temono una generale trasculturazione verso una cultura unica. Immaginate che perciò non vogliamo sottolineare tutte quante le flessioni e le declinazioni culturali singole. In questo senso la solidarietà semiologica universale che riprendo nell'orecchio dal Damasceno mi pare che possa fornire qualche cosa di abbastanza interessante. Ho detto perfettamente di quello che mi avete chiesto, vi chiedo scusa, ma capite che problema è.